portare alla disperazione. Non ricade solamente su chi la compie, ma soprattutto su chi crea le condizioni perché questa si verifichi. L'ingiustizia deve essere combattuta in qualche modo. La peggiore forma di violenza è spesso quella che non si vede. Quella che non si vede. Quella che non si vede.